Ben ritrovati sul piacere di scrivere. Ritorniamo con il nostro consueto appuntamento con i podcast, questa volta con un argomento che riguarda sia i copywriter che gli autori esordienti, in quanto parliamo di come rendere una storia memorabile. Quelle storie che si ricordano per un avvenimento, un fatto o semplicemente per come vengono scritte. Se da un lato i copywriter devono cercare di creare delle storie efficaci che portino poi alla vendita di un prodotto, gli autori esordienti devono fare in modo anche di farsi ricordare. Cos'è una storia memorabile? È una storia che non solo si fa ricordare, ma che è sempre valida nel tempo, che riesce sempre a interessare qualcuno, quasi epica. Le chiavi di lettura per poter ottenere questo effetto sono le emozioni. Se si riesce a creare un feeling in comune tra chi ci sta leggendo e il protagonista, più forte sarà quell'emozione e più attirerà le persone. C'era una frase di Nicholas Sparks che io ho sentito in un'intervista che lui ha fatto al TG1 un po' di tempo fa, che mi ha fatto un po' impressione e che per me è veramente memorabile. Le emozioni sono quello che accomuna tutti i popoli del mondo, ovvero qualunque sia la propria cultura, la propria religione, gli esseri umani si arrabbiano tutti nello stesso modo, si innamorano tutti nello stesso modo, provano le stesse sensazioni. Quindi non solo si deve creare un'emozione, ma si deve creare anche un terreno comune che riesca a creare il giusto feeling, qualcosa che leghi il protagonista alla persona. Un esempio in letteratura è l'utilizzo della prima e della seconda persona singolare. Ultimamente la seconda persona sta diventando anche di gran moda. Come mai? Parlare in prima persona e quindi far dire al protagonista io permette di pensare al personaggio come una persona con la quale si sta parlando. Il tu dà la stessa impressione, però sembra che il legame sia più stringente. Fateci caso, nel momento in cui qualcuno vi dice quando tu ti senti, automaticamente tu ti poni in quella condizione e quindi si crea proprio questo terreno in comune. Un altro accorgimento è di non essere troppo dettagliati sulle descrizioni, cioè le descrizioni devono dare un punto di riferimento, di un'ambientazione, di un carattere del personaggio, di una caratteristica che serve poi a finire la storia. La descrizione deve servire al lettore per farsi un'idea di dove si trova. L'errore comune in questo caso è descrivere troppo dettagliatamente quello che si sta facendo in stile romanzo dell'Ottocento inglese, dove praticamente si va a descrivere un chiodo perché poi quello serve all'interno della storia. Invece, creando delle descrizioni anche dei personaggi, non scritte a metà, attenzione, però dove si crea un terreno dove il lettore possa immaginare, crea un carattere avvincente, quindi man mano che si susseguono gli eventi, si crea un bel rapporto. Attenzione anche a quando si fanno gli eventi, perché eventi che si susseguono possono anche confondere troppo, quindi è importante che ci sia un rapporto ben preciso tra quello che succede. Come può essere un rapporto di causa-effetto, cioè un protagonista fa una cosa e un personaggio secondario ne ha le conseguenze, quello può essere un aiuto. Ci sono anche delle tecniche che permettono di avere ben chiari i punti della storia. Per esempio, una tecnica molto utile è quella di segnare i buchi, ovvero sappiamo l'inizio di una frase, per esempio, il protagonista si chiama e si lascia un buco perché ancora non si è creato il nome. E quindi in questo modo chi scrive come autore, come scrittore, ha il vantaggio di poter inventare solo quello che gli serve e di mantenere poi una coerenza con il tutto. Invece chi si occupa di copywriting o di storytelling naturalmente si deve informare sul prodotto per poter avere l'informazione giusta poi da dare all'utente. Quindi questa tecnica è molto utile per capire cosa manca, cosa serve e come non sovrabbondare con le informazioni. Un'altra idea, viste anche le serie TV di successo come 13 per esempio o come Breaking Bad, è di creare uno stile che somiglia molto alla sceneggiatura di una serie TV. Questo è molto utile soprattutto quando ci si trova di fronte a dei romanzi non autoconclusivi. Come funziona? La prima cosa da fare è avere dei personaggi che hanno una forte caratterizzazione, perché la caratterizzazione e la psicologia dei personaggi permette di muoversi meglio. Di solito si utilizza un tema standard, praticamente. Poi mano a mano ognuno crea la sua storia. Avete mai visto un film quando comincia? Di solito succede sempre una cosa nei film che viene poco considerata. Quando si comincia, si va a descrivere il protagonista, il suo carattere e la sua situazione iniziale, che può essere una situazione sia di vantaggio sia di svantaggio o semplicemente neutra. Durante le riprese, poi, c'è una scena di inizio film che di solito viene riproposta a tre quarti dello stesso film. Ci si trova nello stesso luogo, succede la stessa cosa in ambienti diversi. Fateci caso. E di solito tra una scena e l'altra il protagonista è cambiato completamente. Cioè, se all'inizio aveva una reazione, alla fine, dopo per quello che è successo, ha un'altra reazione. Come funziona questo schema? Allora, dopo che si è ben fissata la situazione iniziale, si crea uno sconvolgimento, che anche questo può essere sia positivo sia negativo. Di solito si usa negativo per un motivo. Perché con l'evento negativo è più facile poi introdurre l'imprevisto, però questo in effetti dipende dai gusti, da cosa si vuole scrivere. Dopodiché il protagonista, quando si trova in questa situazione improvvisa, deve in qualche modo affrontarla, ed è quel come che dà il senso a tutta la storia. Alla fine sì, il nostro eroe ce la farà, però avrà perso qualcosa e avrà guadagnato qualcosa, e quella scena che ricorre dà l'idea al lettore di cosa è cambiato. Naturalmente ora questo è solo un esempio, poi la fantasia delle persone dipende molto da quello che si è letto, dipende molto da quello che si vuole raccontare, dipende molto da quello che si è visto, cioè ci sono tantissime idee. Poi le tecniche lasciano il tempo che trovano, o meglio, sono un modo per fissare i concetti, sono un modo per non perdersi durante la propria storia. Naturalmente se c'è un personaggio che sta andando per conto suo, lasciateli andare, ragazzi, perché un personaggio che fa per conto suo vi rivoluziona la storia e vi rivoluziona sempre in modo positivo. Invece per i copy tutte queste tecniche sono utili per dare qualcosa di più a quello che può essere il potenziale cliente. Ma c'è una consapevolezza in più. Rispetto allo scrittore, il copywriter deve avere esattamente l'idea di chi sta parlando. Invece lo scrittore può fare come dice Pennack, ovvero scrivere senza pensare a nulla. Infatti un copywriter deve sapere molto bene qual è il prodotto che sta promuovendo e soprattutto a cosa serve, anche in maniera schematica, di maniera tale poi da poterlo esporre al meglio. Naturalmente qui c'è anche Seth Godin che giustamente dice che la verità si può dire in tanti modi e si può soprattutto abbellirla quando ci si trova di fronte a una verità che aiuta le persone. Naturalmente questo poi è anche frutto di esperienza. Comunque è sempre importante mai lasciarsi abbattere e scrivere sempre seguendo il proprio stile, perché le tecniche, ripeto, possono essere standard, però poi ognuno trova il suo modo per costruire la sua storia e renderla il più avvincente possibile. Dal piacere di scrivere per oggi è tutto, vi ricordo i nostri canali social, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, davvero seguiteci ovunque perché siamo ovunque, anche su Telegram, su Twitch, su CamTV, su YouTube, seguiteci e vi ricordo che l'archivio podcast è su internetarchive.org, il piacere di scrivere. Alla prossima!